Sometimes I get a good feeling, yeah. Yeah. Il coordinamento lesbiche romane presenta I get a feeling that I never had before, no, no. È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. I just wanna tell you right now that Trasmissione autogestita sugli 87.900 di Radio Onda Rossa. Buonasera e benvenute a questa nostra 287esima trasmissione. In studio per farvi compagnia siamo Caterina e Stefania, ma presto ci collegheremo telefonicamente con l'autrice del documentario che sicuramente ha fatto riflettere chiunque lo abbia visto. Stiamo parlando di Diversamente Etero, il documentario realizzato da Elena Tebano, Milena Cannavacciuolo, Marika Lizzadro e Chiara Tarfano. Oggi abbiamo il piacere di avere ospite al telefono Milena Cannavacciuolo, che come dicevamo prima è una delle autrici del documentario ed è anche responsabile editoriale di www.letspop.it, che, come recita il sito, tratta di cultura pop in salsa lesbica. Allora, nel ricordarvi che potete intervenire a questa trasmissione scrivendo un sms al numero 339 853 6270, mandiamo subito un brano musicale. Sì, è la cantante Zaz. Mi sono persa un attimo, stavo facendo un'altra. Mi sono distratta. Onira? Onira. Onira, ok, no. Va. On ira écouter Harlem au coin de Manhattan, on ira rougir l'été dans les souks à Amman, on ira nager dans le lit du fleuve Sénégal et on verra brûler bombé sous un feu de Bengale. On ira gratter le ciel en dessous de Kyoto, on ira sentir Rio battre au cœur de Janeiro, on lèvera nos yeux sur le plafond de la chapelle Sixtine et on lèvera nos verres dans le café Pushkin. Oh, quelle est belle notre chance. Les étoiles, nous sommes l'univers. Vous êtes un grain de sable, nous sommes le désert. Vous êtes mille pages et moi je suis la plume. Oh oh oh oh oh. Vous êtes l'horizon et nous sommes la mer. Vous êtes les saisons et nous sommes la terre. Vous êtes le rivage et moi je suis l'écume. Oh oh oh oh oh. On dira que les poètes n'ont pas de drapeau. On fera des jours de fête autant qu'on a de héros. Qu'il y a des reines autant qu'il y a de femmes. On dira que les rencontres font les plus beaux voyages. On verra qu'on ne mérite que ceux qui se partagent. On entendra chanter des musiques d'ailleurs et l'on saura donner ce qu'on a de meilleur. Oh, quelle est belle notre chance. Aux mille couleurs de l'être humain, mélangées de nos différences, à la croisée des destins. Vous êtes les étoiles, nous sommes l'univers. Nous sommes le désert. Vous êtes mille pages et moi je suis la plume. Oh oh oh oh oh. Vous êtes l'horizon et nous sommes la mer. Vous êtes les saisons et nous sommes la terre. Vous êtes le rivage et moi je suis l'écume. Vous êtes les étoiles, nous sommes l'univers. Vous êtes un grain de sable, nous sommes le désert. Vous êtes l'horizon et nous sommes la mer. Vous êtes les saisons et nous sommes la terre. Vous êtes le rivage et moi je suis l'écume. Oh oh oh oh. Ecco, ci sono, mi sto impicciando come al solito con tutta la strumentazione tecnica. Sto cercando una musica di sottofondo. Credo che sia partita. Ci senti? Sì, c'è anche il sottofondo, ce l'abbiamo. Allora, abbiamo detto che avremo una graditissima ospite telefonica, però prima facciamo una breve presentazione. Il documentario di cui parlava prima Stefania è stato trasmesso in varie città italiane. A Roma è stato proiettato in una serata del Kesbilè e al Cinema L'Aquila in collaborazione con il Mario Mieli. Diversamente etero è un documentario sull'omofobia nella televisione italiana e tratta di Sara Nile e Veronica Ciardi, protagoniste del Grande Fratello 2010. Vorremmo chiarire subito che noi come gruppo siamo contrarie ad ogni forma di spettacolarizzazione del privato che purtroppo invece caratterizza ormai la televisione italiana e non solo italiana, direi quasi mondiale. Ma al di là del credere che sia stata una storia costruita o reale, quello che ci interessa mettere in evidenza è il grande impatto che ha avuto su una parte del mondo lesbico, al punto da creare una comunità virtuale e non solo. Ma ricostruiamo quanto è accaduto. Sara e Veronica si baciano la notte di Capodanno del 2010. Una simpatia iniziale si trasforma in una storia d'amore, o almeno così viene percepita dalle spettatrici, che iniziano a seguire le due con un interesse sempre maggiore. Le due ragazze invece sembrano confuse, non si dichiareranno mai lesbiche e non definiranno mai quello che vivono. Ciò che arriva al grande pubblico è una storia d'amore contrastata. Il feeling e la passione tra le due non è ben visto e assolutamente non è accolto favorevolmente, soprattutto dai due maschi ospiti della casa del Grande Fratello. Anche la produzione sembra farsi trovare impreparata ad affrontare la vicenda, risultando quasi spiazzata. Forse invece è ben pronta a cavalcarla ad arte questa storia. Il termine sogno, modo con il quale Sara e Veronica definiscono quanto sta accadendo loro, diventa la parola d'ordine dei fan club, dei vari fan club che si moltiplicano sul territorio. Gli attacchi che le due subiscono dai maschi della casa e dalla produzione vengono denunciati come atti di omofobia e addirittura si creano canali tematici su YouTube. Questi consentono alle due protagoniste di essere seguite in tutto il mondo, tanto che quando escono dalla casa le serate in discoteca organizzate per averle come ospiti registrano sempre il tutto esaurito. Le donne si spostano da tutta Italia e anche da alcuni paesi europei. Si verifica una sorta di migrazione per assistere a queste serate che tra l'altro sembrerebbero apparire quasi come serate separatiste, vista l'assenza o quasi di maschi, insomma. Altra cosa invece è la parte organizzativa che di separatista non ha praticamente nulla, anzi. Diversamente etero racconta questo fenomeno e riflette sulla visibilità lesbica in televisione, utilizzando filmati censurati dalla TV, le interviste a fan, ad alcuni giornalisti ed esperti di comunicazione, ma anche dando parola ad attivisti del mondo LGBT. Guardando il documentario si ha la sensazione di assistere a un fenomeno di massa lesbico. Queste due ragazze sono riuscite dove purtroppo spesso noi non riusciamo, cioè trascinare le lesbiche, attrarle, farle uscire fuori di casa. Come lesbica separatista impiegata nella politica, io personalmente mi sono sentita in colpa per non aver riflettuto nel 2010, cioè quando il fenomeno era in atto, sulle segnalazioni che ci sono arrivate di omofobia nel Grande Fratello. Purtroppo si è pensato subito ad un evento creato ad arte senza riflettere sull'effetto che ha avuto sulle donne e sulle lesbiche che vi hanno assistito. Cosa ci ha incuriosito in questa storia? Ci siamo fatte alcune domande. Perché di fronte a due donne che non si definiscono lesbiche, le donne lesbiche riconoscono un grande amore? Com'è rappresentato l'amore pubblicamente? Qual è il sogno collettivo per le donne lesbiche? per riconoscersi come lesbiche abbiamo bisogno di vederci in coppia? A queste prime domande, sorte spontaneamente, altrettanto spontaneamente sono arrivate le risposte. L'amore viene rappresentato tra un uomo e una donna costantemente dai film, dalla pubblicità, dai romanzi, dai racconti, ma non solo. Vogliamo parlare della mistica del matrimonio? Con la sposa in bianco e lo sposo in tight? Per la comunità LGBT non c'è altrettanta rappresentazione, tant'è vero che ancora le istituzioni discutono sull'opportunità o meno di concedere l'istituto matrimoniale alle coppie gay e lesbiche. Ma quanto c'è nella nostra consapevolezza di una rappresentazione originale dell'amore tra lesbiche? L'amore o è quello eterosessuale o non è? Allora, ed ora fatta questa breve premessa, discutiamo di tutto questo con Milena Cannavacciuolo, che, come abbiamo detto prima, è una delle autrici del documentario. Allora, qualche piccolo problema tecnico di sincronizzazione tra la diretta e la telefonata. Volevo soltanto avere la conferma se c'era in linea. Ci sei? Milena, pronto? Scusate, mandiamo una canzone e cerchiamo di risolvere il problema. 4, 3, 2, 1. I'm gonna ride on a rocket ship 84 away from here. I'll leave the planet far behind, so beyond the stratosphere. You know I'm gonna leave the Milky Way. I never liked it anyway. I'm gonna ride on a rocket ship and get it far away from me. Well, I picked up the paper. What do you think it said? Well, there's war and hate, famine and plague. I couldn't believe a word I read. I just wanna get away. Sì, ecco, ti sentiamo adesso. Okay. Ci siamo, sembra ci tutto siamo. Perfetto. Scusa, i problemi della diretta. Allora, ciao Milena. Ciao Milena, tutto bene? Ciao. Sì, tutto bene, a parte gli 800 gradi a Milano. Tutto sì, bene. Siamo sul 799 qui a Roma, se ti può consolare, quindi. immaginavo, però veramente a Milano è impressionante in questi giorni, più che altro perché una settimana fa ce n'erano 15 di gradi, però vabbè, lasciamo perdere. Va bene, pronto? Allora, io sono Stefania, cioè qui con me Caterina. Ciao. Ciao. Non so se hai avuto modo. Ragazze. Ciao, di sentirci. Ciao a tutte le ascoltatrici. Tu sei abituata a fare filmati e dici spettatrici, ma noi siamo ascoltatrici, visto che siamo in radio. E quindi noi facciamo una cosa difficile, il cinema in radio praticamente. Mica da tutti. È una cosa anche molto bella. Allora Milena, ci vuoi raccontare com'è nata l'idea di questo documentario? Allora, l'idea di Diversamente Etero è nata qui a Milano, mentre invece cioè all'epoca c'era la neve, perché era febbraio, e all'epoca c'era Elena Cubano, che è una delle nostre autrici, praticamente che stava preparando un lavoro sulla rappresentazione dei personaggi gay e lesbici all'interno della televisione. E nel frattempo noi avevamo avuto diversi contatti da parte di nostre amiche che ci avevano linkato dei video di Sara e Veronica. Ci siamo incuriosite, abbiamo cominciato a vedere i video e abbiamo detto: ma perché non proviamo a, come dire, io l'ho detto, guarda Elena, perché non inserisci anche loro, no, all'interno del discorso che fai rispetto ai personaggi, certo, a come viene raccontata, no, l'omosessualità in televisione, soprattutto perché tutti gli esempi che lei prendeva erano quasi sempre esempi stranieri. Certo. C'è pochissimo all'interno del panorama televisivo italiano, cioè di produzioni italiane, che abbia all'interno dei personaggi gay o lesbiche o bisessuali, insomma. Quindi a un certo punto abbiamo pensato, vabbè, ma da questo potremmo anche farci un documentario. Ma era un'idea molto, come dire, a livello embrionale doveva essere qualcosa di molto simile al corpo delle donne, perché la cosa che ci aveva colpito di più era la differenza di rappresentazione tra quello che si vedeva in televisione, quindi durante le strisce pomeridiane, durante le puntate del lunedì sera del Grande Fratello, in cui la storia di Veronica e di Sara e Veronica aveva raccontata, ma raccontata un pochino così, in maniera gelata, abbastanza, ma neanche velata, un peccato, con una certa morbosità, cioè c'era proprio quell'occhio, un voyeur, ma poi alla fine è la base anche del Grande Fratello, c'era un po' quello, certo, sguardo, capito, molto maschile fondamentalmente, anche cioè del guardate queste due come sono trasgressive, si baciano anche tra di loro, yuppie, insomma, questo, certo, più o meno era il senso. Mentre a noi aveva colpito come la storia di Sara e Veronica veniva invece rielaborata, riraccontata attraverso tutti i filmati che venivano postati su YouTube dalle fan. Ed era veramente perché praticamente funziona così, per chi non ha un'idea precisa di come sia il Grande Fratello: il girato è di 24 ore su 24 perché è costante sui personaggi che sono all'interno della casa. Dopodiché viene la redazione, sceglie delle clip da mostrare o nella striscia pomeridiana che va all'interno di vari programmi, Pomeriggio 5, quelli insomma di Barbara D'Urso e affini, poi alla fine nella puntata del lunedì sera che va in onda su Canale 5, che andava in onda, per dirti Dio, non lo fanno più Grande Fratello da un po' di anni. E quindi insomma, quindi c'è una scelta rispetto a quello che succede davvero all'interno della casa, certo. Una scelta che è essenzialmente narrativa, cioè io scelgo di raccontare delle cose che penso possano interessare davvero al pubblico. Certo. E nel caso della fattispecie di Sara e Veronica era stata raccontata tutto il rapporto che loro avevano con i rispettivi maschi della casa, omettendo invece tutta una serie di cose che invece le fan prendevano dal girato, dalle 24 ore che andava in onda su Mediaset Premium, quindi sui canali a pagamento, e lo ripostavano su YouTube, rendendolo fruibile poi per un numero infinito, illimitato di visualizzazioni. No, ma poi questo mi fa pensare che tutto sommato la cernita e la selezione dei filmati da mandare in onda voleva in qualche modo anche direzionare la cosa, nel senso che doveva essere di un certo tipo, proprio in rispetto di quella morbosità di cui accennavi tu prima, no? Quindi quello che si faceva di più era quello. Sì, in realtà l'impatto iniziale che abbiamo avuto, che ci ha colpito tantissimo, era questo, cioè proprio i due registi, i due modi diversi di raccontare, in realtà, per dirla, come dire, in maniera forse anche un po', non so se è forzata, però mi sembrava molto di vedere lo sguardo maschile in quello della televisione, lo sguardo femminile in quello delle fan. Certo, bella interpretazione. Sì. Senti, ti posso fare una domanda? Siccome hai parlato sempre al plurale, noi abbiamo letto anche degli altri nominativi, ci vuoi dire, noi sappiamo che siete in quattro, no, ad aver lavorato a questo progetto, magari se ci chiarisci i ruoli di ognuna, allora io e Elena Tebbano siamo autrici e produttrici del documentario, che in realtà è un lavoro autoprodotto. Marika Lizzadro è la regista, che è lei che è venuta, diciamo, un po' dopo, che ha un po' raccolto tutte le idee rispetto a quello che noi invece avevamo fatto come ricerca e come girato. Invece Chiara Tarfano ci ha dato una grandissima mano nel far reportage, nel montare degli spezzoni, mm-hmm. e come dire, e ovviamente poi essendo un lavoro collettivo, diciamo che noi possiamo parlare in termini, come dire, ok, noi abbiamo fatto questo, noi abbiamo fatto quello, però in realtà è un lavoro che viene tutto sommato da tutte e quattro, perché certo, alla fine certo. ci si discute, cioè si discute sulle cose, e in effetti si danno dei ruoli perché è giusto che sia così, però poi sai, il confine, quest'idea è stata mia. Certo, no, ma infatti guarda, anche fondamentalmente dal dibattere tra di noi, dal certo dal anche noi, per esempio le nostre trasmissioni, magari tante volte noi ai microfoni parliamo in prima persona, però ogni trasmissione è il frutto di un lavoro collettivo, no? Quindi capisco perfettamente quello che stai dicendo, ed è per questo che abbiamo lasciato i nomi di tutte e quattro, certo. Perché comunque ok, l'idea è nata da me e Elena, però poi alla fine non sarebbe mai riuscita a concretizzarsi se non ci fossero state Marika e Chiara. Certo, senti, ci è molto piaciuta anche la mappa tematica che guida la visione del documentario. Sì. Ce la vuoi descrivere, anche considerando che in radio ovviamente non la possiamo visualizzare? Certo, ma il modo più semplice per descrivere la mappa tematica è le linee della metropolitana. Chi vive in una grande città, che sia Roma o Milano, ha presente o semplicemente banalmente la metropolitana di iconografica per eccellenza, cioè quella di Londra, sono linee che si intersecano. L'idea nasce, e questa è un'idea che abbiamo avuto io e Marika, ma essenzialmente lei, proprio per rendere visibile in maniera molto diretta come questo racconto della storia di, che parte dalla storia di Sara e Veronica e arriva poi a migliaia di fan in tutta Italia e non solo, in realtà non è altro che una serie di storie e di elementi anche concettuali che si intersecano, perché all'interno di questa mappa concettuale appunto ci sono termini come se fossero fermate della metropolitana, che sono rappresentazione, visibilità, community, web, e percorso, cioè, e via discorrendo, cioè perché è come se volesse raccogliere un po' tutti i punti che noi abbiamo preso in esame. Preso in esame, perché effettivamente per noi è stato anche un lavoro, siccome è un lavoro fatto in itinere, cioè noi abbiamo seguito la storia di Sara e Veronica appena loro sono uscite dalla casa, perché è vero che uno dei motivi per cui poi il documentario si è focalizzato tantissimo anche poi, cioè è partito dalla televisione per focalizzarsi sulle fan, perché noi siamo andate ad una serata di Sara e Veronica, la prima, quella del Tocqueville, che si vede anche all'interno del documentario, in cui a un certo punto siamo rimaste sconvolte perché c'era un migliaio di anche donne. Noi siamo rimasti sconvolti anche noi, infatti. Sì, ma e lì abbiamo deciso che in realtà il pezzo, cioè quindi da una cosa molto concettuale che poteva essere appunto la questione della rappresentazione, della visibilità, certo. e via discorrendo, si andava a qualcosa invece di molto più o il web al tempo stesso, certo. invece si andava a qualcosa di molto più concreto, certo, cioè delle donne che proprio fisicamente si danno un appuntamento, si incontrano e condividono un'esperienza. Sì, sì, infatti siamo rimaste colpitissime proprio forse dalla prima serata. Esatto. E noi al nostro interno abbiamo avuto un dibattito molto serrato sul documentario, ma soprattutto sul ancora? Fenomeno. Scusami, sì. lo prendo come motivo d'orgoglio. Sì, però. È vero. Soprattutto sul fenomeno che andate ad analizzare, proprio perché è generato dal Grande Fratello. Cosa vi ha convinto a girare il documentario e cosa invece magari vi aveva un po' lasciate perplesse, forse come noi? Ma innanzitutto, guarda, forse la cosa che ci ha convinto di più è stato, te l'ho detto, quello delle fan, cioè incontrare e capire che quello, avere la prova tangibile che quello che si vede in televisione, che venga anche, e questo ovviamente è un mio parere, cioè è il nostro, diciamo, il nostro punto di partenza, il fatto che parta da qualcosa che onestamente non è proprio edificante, esatto. cioè, per usare un eufemismo, ok? Cioè comunque è un tipo di televisione che può essere intrattenimento, può piacere, non può piacere, però non nasce per, tra virgolette, educare, ok, lo spettatore, ancor meno per educare lo spettatore GLBT. Certo, certo. Siamo proprio, voglio dire, il vincitore dell'edizione la decima edizione, quella di Sara e Veronica, e Massimo Marin, che è un maschilista, sì, e che oggettivamente non ha mai fatto un omofobo, che non ha mai fatto nulla per nasconderlo, quindi certo, anzi se ne vantava pure, figurati, e che ha anche insultato. Scusami? Dico, se ne vantava pure e ha anche insultato pesantemente le due protagoniste. Senti, ma per tornare invece alle cose, no, dico per tornare alle cose che magari ci interessano affrontare, che è questo delle fan, del movimento che si è venuto a creare, no? Sappiamo che è difficile riuscire a fare un calcolo, ma secondo le tue stime, il tuo impegno rispetto a questa cosa che hai fatto, quante donne in tutto il mondo si sono interessate a Sara e Veronica, più o meno orientativamente, perché questo denota anche un'assoluta assenza dall'altra parte, no? Cioè, se vengono prese d'assalto situazioni come queste, ci dà anche il Sai, secondo me sono due cose diverse. Su questo c'è un piccolo inciso che voglio fare. Una cosa è la comunità internazionale, che nella storia di Sara e Veronica ha visto una delle tante storie che trovi sul web che appassionano, io la chiamo l'internazionale lesbica, per cui tutto quello che riguarda donne lesbiche, bisex, che siano personaggi reali, personaggi di fiction, vengono seguiti. A maggiore o a minor titolo, ma vengono assolutamente seguite. Non è un caso se qualsiasi telefilm tu vedi, io ho trovati anche gli israeliani, certo, con i sottotitoli messicani, cioè qualsiasi cosa, perché è il bisogno di rappresentazione che c'è, e che c'è anche poi questo bisogno in qualche modo anche questa voglia di curiosare, no? Cosa succede, certo, perché loro erano proprio incuriosite da quello che succedeva in Italia, e questa è una cosa rispetto al pubblico internazionale. Quello che riguarda il pubblico italiano, secondo me, è un po' diverso, perché è molto più legato invece al bisogno di rappresentazione e alla totale assenza di rappresentazione rispetto all'Italia. Termini di numeri, guarda, io ti dico solo che il canale di America, era il canale che raccoglieva i video di Sara e Veronica all'epoca, cioè quindi sto parlando di gennaio-febbraio del 2010, era tra i 50 più visti al mondo. Mamma mia, ma senti, quindi parliamo, parliamo proprio di numeri, che poi questi ovviamente non si siano tradotti tutti questi numeri, non è che si sono tradotti in fan che hanno poi continuato a seguire Sara e Veronica, quelli sono numeri sicuramente minori. Ma una comunità effettiva secondo te è nata? Guarda, non, secondo me è nata in quanto comunità è anche morta, perché poi dopo un po' inevitabilmente sono nate, secondo me, e questo sono nate anche rispetto a me, cioè nel senso che poi noi abbiamo conosciuto e sono diventate comunque delle nostre amiche, delle persone che abbiamo continuato a frequentare e che tra di loro si frequentano ancora tuttora, dei gruppi di persone. Sì, ma infatti scusa se ti interrompo, si ha quasi l'impressione di assistere ad un harmony lesbico, no? Una mistica femminile dell'amore romantico. Certo. E quindi è evidente il bisogno di sentirsi e vedersi raccontate. Com'è la rappresentazione delle lesbiche in televisione? C'è una differenza nella rappresentazione delle lesbiche in televisione e sugli altri media o no? Ma sai, in televisione le lesbiche in Italia ti contano sul dito di una mano. Anche mezza. Poi te le racconto tutte, ti dico personalmente l'unica che io penso sia straordinaria è il personaggio di Eva dell'ultima serie di Tutti pazzi per amore, Tutti pazzi per amore 3, scritta da Iva Incotroneo e Paola Rametta, che è fantastica, cioè lei è veramente il personaggio lesbico che almeno a titolo personale avrei sempre che vorrei vedere nella televisione. E stiamo parlando di un anno fa, e temo che almeno finora di quasi 2 anni fa, e finora non ci sarà una quarta edizione del telefilm. Poi spero che invece cambino idea in Rai e facciano Tutti i pazzi per amore 4 con sempre il personaggio di Eva, cioè, perché lei è fantastica, però... perché è un personaggio positivo, bello, viene raccontato il suo rapporto con la compagna, ma anche il fatto che lei prova desiderio per un'altra donna, quindi si rompe il famoso tabù per cui gli omosessuali in televisione o sono dei poveri disgraziati o si suicidano o sono perennemente monogami, sì, certo. Perché la monogamia è un'altra forma di cattiva rappresentazione, perché certo, cosa succede certo. se sei sempre la coppietta felice? Uno non generi storia, certo. E poi non è reale, non è realistico, sì. Sei una visione idealistica del mondo, mentre in America, dove da questo punto di vista sono lontani anni luce, ti posso fare, cioè, voglio dire, sono Kelly Arizona di Grey's Anatomy, cioè il mio personaggio preferito che adoro, che è Santana Lopez di Glee. Questa mi manca, io ero rimasta a ER dove c'era la dottoressa, ma sono giurassica per cui... anni 90, ma ci sono Emily e Naomi che adesso torneranno, un telefilm inglese che si chiama Skins che torneranno, ci sono i telefilm canadesi dove quasi sempre sono personaggi lesbici e vengono assolutamente raccontati in una maniera che per noi è tranquilla, per lei. Certo. Senti, ma fin qui abbiamo parlato di TV generalista. Invece, parlando di web series, che adesso ce ne sono due italiane, che una è LSB e l'altra è Relazione a Catena. Non so se le hai viste e cosa ne pensi in generale. No, le ho viste, ovviamente, le ho viste entrambe. Guarda, allora ti dico, da un punto di vista, allora, rispetto alla comunità lesbica, sono delle cose importantissime, sono dei piccoli passi anche realizzati a fatica, perché comunque in genere si tratta anche lì di lavori autoprodotti o comunque con crowdfunding, quindi ovviamente è importante che se ne facciano, ed è giusto, perché poi alla fine ci sono, anche perché il web da questo punto di vista dà molta più libertà, se tu certo. non hai un responsabile di rete a cui devi far capo, no? Certo. Sei molto più libero e sei solo responsabile del tuo pubblico, e io credo che sia una cosa meravigliosa. Rispetto invece a, purtroppo, all'immaginario collettivo, alla televisione, all'immaginario collettivo, sono una goccia nell'oceano, certo. Perché ovviamente si rivolgono a un determinato pubblico. Io personalmente trovo dei prodotti importanti, cioè dei prodotti anche fatti bene, voglio dire, cioè fatti con cura, dei prodotti comunque che ammetto che ho una lieve, ma questo poi è un ribadisco un parere mio, un gusto, preferenza per Relazione a Catena, semplicemente perché ci ho visto un maschietto, cioè quello poi è perché questo è un gusto mio, di una che ti dice guarda DL World, che è importantissimo, che è bellissimo, sì. Per cui ringrazieremo per sempre autrici, produttrici, attrici, registe, tutte, però a me dopo un po' mi stava un po' stretto, perché sì, non mi piace immaginare un mondo dove le lesbiche sono distaccate dal resto del mondo. Non lavoravano, esatto, vivevano di rendita, esatto, c'erano delle case mega galattiche. Esatto, cioè io se scendo di casa non è che la mia panettiera esatto. è lesbica e figa e mi fa l'occhiolino. Cioè, magari purtroppo questa cosa manca. Erano poco calate nella realtà quotidiana, diciamo. Ecco. No, poi è importantissimo, perché ha rivoluzionato la televisione. Non avremmo nulla dei personaggi, nessuno dei personaggi che ti ho citato prima, se non fosse stato per DL World. Certo, perché, certo. E anzitutto ha dimostrato che ci poteva essere un pubblico, e secondo me in questo modo sia LSB che Relazione a Catena, un poco alla volta, dimostrano che esiste un pubblico lesbico. Certo. E va dimostrato anche, non so come dire, cioè, guarda che ci siamo anche noi, e se io metto un video su YouTube e mi fa 10.000, 100.000 visualizzazioni, siete in qualche modo, devi tenere conto. È certo, è certo. Senti, purtroppo il tempo è tiranno e quindi ti dobbiamo quasi salutare, però dici se avete in progetto di proiettare il documentario in giro per l'Italia, quali sono le prossime date? No, in questo momento siamo in fase di incrociamo le dita e cerchiamo di lavorare su una distribuzione capillare del documentario, che non sia più rispetto alle produzioni, diciamo, rispetto alle, come dire, oddio, mi manca la parola. Cioè, nel senso, stiamo lavorando su dei canali distributivi più grandi, ecco. Quindi non, per ora non contiamo di andare a proiettarlo da altre parti. No, non ci saranno delle proiezioni, un po' perché sinceramente AmFamf sono stati 2 anni bellissimi, ma sono stati anche 2 anni molto faticosi. Certo, immagino. E poi perché probabilmente vorremmo sperare, insomma, provare. Io sono rimango molto vaga perché sono tutte cose che stiamo decidendo in questo momento, quindi di più non vi posso dire, però che insomma cominci a camminare con le sue gambe, che non dobbiamo portarlo noi materialmente per nelle farlo vedere in giro, ma che finalmente, insomma, dico, della serie sei grande, esci decolli, casa. Certo, va bene. Senti, come ti ha detto Stefania, noi abbiamo le compagne qui che vanno in onda con la trasmissione dopo, che ci stanno già facendo dei voluminosi gesti, taglia. Noi andremo avanti a oltranza, perché la cosa ci ha appassionato molto, nonostante anche noi abbiamo avuto un dibattito sopra questo documentario veramente notevole. Ci siamo anche un po' arrabbiate tra di noi, e quindi secondo me è una cosa positiva, perché se un prodotto dà da pensare, tanto da far discutere, è già un ottimo risultato. Quindi per me, grazie. Io ti ringrazio per quello che voi, il tuo gruppo, e ti ringraziamo di aver partecipato alla nostra trasmissione, e poi ti lasciamo sempre con Zaz, una canzone che ti dedichiamo, e si intitola Una storia d'amore. Ciao Milena. Grazie mille, ragazze, buona serata. Grazie, e anche a te, buon lavoro. Ciao, ciao, ciao. Ciao, grazie, ciao. No estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Que si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Y en tus besos encontraba, y en calor que me brindaba, y el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otra igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión. En tus besos encontraba, y el calor que me brindaba, el amor y la pasión. Encontraba y el calor que me brindaba y el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otra igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida. E quasi mi dispiace interrompere questa canzone, ma devo dire delle cose importanti. Chiaramente avete ascoltato È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, trasmissione a cura del coordinamento lesbiche romane nell'ambito del martedì femminista e lesbico autogestito sugli 87-900 MHz di Radio Onda Rossa. Avete la possibilità di ascoltarci in diretta attraverso il sito della radio, che è www.ondarossa.info, oppure tramite il sito ufficiale del CLR, che è www.clrbp.com. www.radiocompany.it. In entrambi i casi basta cliccare sull'icona in diretta. Alcune indicazioni per contattarci qui in radio fino alle 22, ma ormai non potete più perché spegneremo tra poco il nostro cellulare. Con una mail a noi a contatti@clrbp.it oppure visitando la nostra pagina Facebook dal nome CLR o il nostro sito www.clrbp.it. E se avete voglia di riascoltare la trasmissione, potete andare sul nostro sito, che ripeto www.clrbp.it, andare sul banner in alto e cercare trasmissioni, e lì c'è tutto l'elenco delle trasmissioni, che questa di oggi verrà caricata penso domani o dopodomani al massimo. Allora, io e Stefania vi salutiamo, grazie per averci ascoltato, grazie a Milena e buon proseguimento, buona serata. Sometimes I get a good feeling, yeah, yeah. I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no, yeah. Avete ascoltato È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, a cura del coordinamento Lesbiche Romane sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. I really do believe that something's got a hold.